Effetto Mondo. The fact that the president has not really invoked the Defense Production Act for the purpose of emergency manufacture is going to cost lives. Eccoci qua, buongiorno Giulia Crivelli, ciao. Buongiorno. Cos'è che abbiamo sentito? È la voce di Alexandria Ocasio-Cortez, che è diventata talmente popolare che addirittura ha già il suo acronimo, AOC. È una deputata eletta alla Camera dei Rappresentanti per lo Stato di New York, per il Partito Democratico, e qui è molto critica, e sappiamo che il Congresso è di fatto in uno stallo su questo pacchetto di aiuti che Trump vuole varare al più presto possibile. Lei è molto critica verso, per esempio, il fatto che Trump sia riluttante a usare questa legge che prevede in tempi di guerra di obbligare le aziende a riconvertirsi o a produrre un certo tipo di cose e non un altro. Lei dice invece in questo caso, con la penuria di ventilatori, di mascherine, anche di alcuni tipi di medicinali e disinfettanti, questa decisione del presidente Trump costerà vite. Questo dibattito durissimo tra repubblicani e democratici si trova naturalmente su tutti i giornali americani. Vi segnalo in particolare USA Today, che si chiede: who lives, who dies, crisis may test ethics. Cioè si riproporrà anche negli Stati Uniti il tema che i posti in terapia intensiva sono limitati e alcuni medici dovranno per forza scegliere sulla base del, probabilmente soprattutto dell'età, o magari del fatto che comunque le persone che si ammalano, che peggiorano per il coronavirus, hanno delle malattie che magari li avrebbero portati comunque a morire, hanno delle diagnosi comunque di poche prospettive di vita, però appunto è una scelta etica non da poco. In tutto questo, Giulia, c'è del torbido anche nel comportamento, almeno secondo le accuse che vengono fatte, che vengono mosse da alcuni senatori, che avrebbero venduto azioni prima del crollo di Wall Street? Sì, questo è un tema che sta facendo veramente infuocare tutti i network, e ho scelto, se vogliamo sentire questo audio, un commentatore da Fox News, che è in assoluto un network da sempre e in modo anche poco bipartisan favorevole a Trump, ma in questo caso con questi quattro senatori repubblicani e una democratica che hanno venduto le loro azioni il giorno prima del crollo di Wall Street, sono veramente durissimi, è un attacco abbastanza inedito. Sentiamo. Her husband's the chairman of the New York Stock Exchange. Yeah. She sold these stocks on the day of the briefing, right after it happened. And like you said, not only did she sell a lot of stocks, she bought a stock which benefits from a software that helps teleworking. Qui dice questa deputata repubblicana, che per inciso è anche la moglie del presidente della borsa di New York, ha venduto il giorno prima del crollo tutte le sue azioni per milioni di dollari e contestualmente ne ha comprate in un'azienda di biotech che poi è andata molto bene. Si stanno tutti giustificando dicendo, perché c'è una legge negli Stati Uniti che oltre alla trasparenza implica anche che tutti i patrimoni, anche azionari, vengano messi in una sorta di blind trust quando si viene eletti al Congresso, però comunque loro ricevono le loro comunicazioni e comunicano con i loro trader o con i family banker, perciò è palese che tutte queste persone che avevano avuto accesso un'analisi che prevedeva questo esplodere della crisi del coronavirus anche negli Stati Uniti, ma guarda che strano, hanno venduto le loro azioni il giorno prima che i dati sull'epidemia spaventassero Wall Street. Guarda che strano, le informazioni che circolano proprio lì, da quelle parti lì, insomma, in posti diciamo non del tutto casuali. Vabbè, e veniamo invece in Europa, Giulia, come se la passano per esempio gli altri paesi europei? L'Inghilterra. Nel Regno Unito io mi aspetto che Boris Johnson, più spettinato e arrabbiato che mai, oggi faccia una conferenza stampa durissima, perché ci sono delle foto impressionanti, cioè ieri veramente persino sul Guardian, che come diciamo sempre è quello che cerca di mantenersi meno scandalistico e meno allarmistico, foto di questo bellissimo, per carità, mercato dei fiori di Columbus Road, che c'è ogni domenica, persone tutte accalcate che comprano fiori allegramente senza mascherina. Poi ci sono quelli che hanno fatto una scappatina in spiaggia, che hanno fatto, insomma, però la maggior parte delle persone fotografate senza mascherina è sicuramente a meno di un metro di distanza. E quindi il Guardian dice: Johnson sta per fare un ultimatum: obbedite oppure avrete un lockdown di quelli strict, di quelli seri. E addirittura il Times titola curfew, che è proprio il coprifuoco, una minaccia di coprifuoco per fin- insomma, non ascoltano. I britannici non si sono resi conto, diciamo, soprattutto quelli non nelle categorie a rischio, che però sappiamo sono il veicolo di propagazione e trasmissione del virus, quindi anche loro dovrebbero essere, se non altro, cauti. Sicuramente non ascoltano, probabilmente sono anche, come dire, influenzati dal modo in cui la classe politica li ha comunicato loro. Anche in Italia noi abbiamo cambiato i nostri atteggiamenti a mano che tutti in coro si sono messi a dirci: state a casa, state attenti, state a casa. Inizialmente anche da noi c'era una grande sottovalutazione, perché anche alcuni politici e alto personale pubblico, diciamo, sottovalutava un po' la questione. Credo che siano un po' ancora in quella fase, forse, non vorrei sbagliarmi. Giulia, ancora? Un ultimo accenno alla Francia. Gli indici quotidiani lanciano anche lì l'emergenza negli ospedali, perché come tutti non erano nessun ospedale, credo, nel mondo, nessun sistema sanitario nel mondo era tarato per avere tutti questi posti necessari di terapia intensiva. E poi c'è un'interessante intervista su Le Monde a Svetlana Alexievich, che parla dei metodi di Putin. Sapete che Putin sostanzialmente ha detto: o quarantena, o decidete quarantena oppure galera, praticamente. E poi sta passando senza particolari difficoltà il sistema di tracciabilità tramite i cellulari, che in molti paesi ha, se non altro, sollevato qualche dubbio per questioni di privacy, ma lì verrà semplicemente attuato, punto e basta. Se vi piace così, se non vi piace, appunto, l'alternativa l'ha spiegata bene Putin. 40 secondi sulla Germania, cosa hai da dirci? 30 secondi mi fa. Beh, naturalmente Germania fa molto effetto che Frau Merkel si sia messa in autoquarantena, tra l'altro lo ricordiamo, lei non è positiva, però è risultato positivo un medico con il quale era entrata in contatto, quindi grandi foto su tutti i giornali, foto anche di metro e metropolitane, treni completamente deserti, però c'è anche qualche spazio per la politica estera, per esempio un approfondimento sulla FAZ, sull'Ungheria, perché anche in Ungheria non sappiamo, non arrivano dati, non ci sono malati, chi lo sa. E poi c'è questa iniziativa che un po' si dobbiamo si chiudere però a vicenda, sì, che 4 settimane gratis di giornali portati a casa, i maggiori quotidiani tedeschi.